il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Il mese di dicembre è il mese dello shopping per eccellenza. Anche noi del Quadrifoglio non ci siamo mai tirati indietro e anche quest'anno ci mettiamo in mezzo con qualche consiglio. Abbiamo scelto tra mille persone che nel nostro Veneto potevano darci suggerimenti e idee, una persona che è partita dal proporre i prodotti di altri, possiamo dire così, ma poi ha iniziato a pensare che era limitante e che poteva lanciare anche delle cose sue. Parliamo di Roberta Moresco, che prima di tutto ha trasformato l'attività di famiglia, la distribuzione di bevande anche porta a porta, in una vera enoteca, e da un paio d'anni sta lanciando nuovi prodotti, potremmo dire a ripetizione. Roberta è anche sommelier, è stata presidente della delegazione vicentina dell'AIS, l'Associazione Italiana Sommelier, e ci è sembrata la persona giusta per chiederle qualche consiglio natalizio. Benvenuta Roberta. Grazie, grazie a tutti e soprattutto sono onorata di poter parlare di questo argomento, quindi grazie. Bene, allora visto che sei sommelier non si può non partire dal vino. Per essere originali in questo periodo di banchetti, di cene natalizie eccetera e poi anche in previsione del pranzo di Natale, Capodanno, qualche cosa per essere originali come regalo e anche come qualcosa che si può mettere a tavola. Allora, per quanto riguarda i vini, giusto per non stare sempre nella nostra zona, che comunque ci sono prodotti di eccellenza e soprattutto negli ultimi anni che stiamo sempre ricercando i prodotti a chilometro zero, quindi questi sono, non dico scontati, ma ci sono e ci saranno sempre, no? Quindi il prosecco, certo, piuttosto che altri prodotti della nostra zona, che servono sia per brindare che per pasteggiare durante queste festività che a momenti sono qua. E abbiamo delle eccellenze in tutta Italia e io per prima sono quella che va a ricercare magari quelle piccole cose in giro per l'Italia. E mi sono ritrovata proprio poco tempo fa ad assaggiare dei prodotti della Sicilia, nella costa siciliana praticamente, che sono particolari, del tipo una bollicina di inzolia, che è una cosa strepitosa e potrebbe essere proprio indicata anche proprio per festeggiare e stappare in qualche momento, che ce ne saranno tantissimi. La Sicilia non è proprio il posto dove si pensa agli spumanti, però esatto, in effetti hanno anche questo. Esatto, hanno... perché la Sicilia noi la pensiamo una zona calda, quindi solo vini passiti e zibibbo, no? In realtà hanno anche proprio piccole realtà spumantistiche che si fanno apprezzare e si stanno facendo conoscere, insomma. Questa è una piccola realtà, oppure nella zona del centro Italia, magari anche con un vitigno che si chiama Passerina e da tanta brillantezza anche nel bicchiere, proprio come posso dire, si perfeziona quando si versa quella bollicina lì e scaturisce tantissimo profumo. Al posto magari del prosecco, che è sempre prosecco, potremmo anche andare alla ricerca di qualche prodotto un po' più particolare, che in Italia ne abbiamo tantissimi. Sì, non stiamo dicendo di non acquistare i nostri prodotti, il nostro prosecco, però si può variare, se no siamo sempre nello stesso. Poi nel caso di quest'ultimo vino che tu hai detto, siamo nella zona tra Marche, Abruzzo, esatto, Lazio, diamo zone anche del, una mano del terremoto, anche esattamente. Una mano. E diamo anche una mano, esatto. Ecco, lasciando un attimo stare il vino, invece in questo periodo si tende anche molto a regalare prodotti, magari ceste, vanno molto le ceste di frutta, ma anche ceste con prodotti, conserve, cose varie, che a volte arrivano anche da non si sa dove, non si sa bene che uso farne perché sono un po' particolari. E qualche cosa, rimanendo sui prodotti tipici, magari anche veneti in questo caso, che ti viene in mente? Beh, diciamo che il regalo natalizio negli ultimi anni si è un po' trasformato, appunto, ci siamo posizionati nel regalare cose utili, no? E fra le cose utili proprio il cesto gastronomico di frutta e di tanti altri prodotti. E io vedo anche in negozio che si apprezza sempre di più il prodotto di qualità. E piccole cose, tipo anche qua nelle nostre zone, che sono proprio tipico, può essere, che ne so, il bigolo con magari un sugo all'anitra che viene abbinato, piuttosto che del formaggio grana, cose molto semplici ma che nello stesso tempo sono di grandissima qualità. Quindi, per dire, anche il baccalà adesso tendono a farlo in confezioni magari più piccole e soprattutto monodosi, e quindi incidono anche relativamente magari su un pacco che si vuole regalare. Quindi prodotti della nostra zona, per quanto riguarda gastronomia, ne abbiamo veramente tanto, anche come verdure in sott'olio, in agrodolce. Ecco, quando tu dici la nostra zona, io non l'ho detto all'inizio, voi siete Ah nella sì. zona vicino a Marostica. Beh, io sono proprio marosticense come attività, zona Vicenza, sì, in Ecco, i vostri generale. negozi, qui parliamo di un'enoteca o comunque un negozio che ha anche varie bevande, vini sfusi, ma un po' vari negozi in questo periodo si trasformano in quasi boutique dell'alimentare e anche un po' le enoteche in boutique dell'alimentare proprio perché si trovano tante cose. Anzi, vedo che è come tendenza ormai, anche nel resto dell'anno, questi negozi che vendono prodotti tipici. Quelli che vengono prodotti tipici hanno molta proposta di vini, le enoteche hanno molte proposte di prodotti gastronomici del territorio, quindi sono quasi delle boutique dell'agroalimentare. Sì, in genere una cosa si abbina perfettamente all'altra e quindi le due cose possono convivere tranquillamente in negozio, nel senso che magari non si ha il fresco proprio per motivi igienico-sanitario di conservazione, no? Però tutti quei prodotti che possono essere confezionati possibilmente con pochissimi conservanti e additivi, si tendono sempre ad avere, tipo io li ho, insomma, è un surplus, è anche un servizio probabilmente che possiamo dare anche al cliente, insomma. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra Va poco. bene, grazie. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Che mi dicevi, ma tu dove vuoi andare? Che non conosci il mondo e ti puoi fare solo male. Ancora hai troppe cose da imparare. Devi solamente stare zitta e ringraziare. Parlando mi dicevi tutto questo e molto altro. Guardandomi ogni volta dall'alto verso il basso, perché non pensavi che avrei avuto un giorno il coraggio. Mi sembrava di restare ferma al punto di partenza, di non essere capace di bastare mai a me stessa, di non avere una certezza, di non essere all'altezza. E invece pensa, nessuna conseguenza di te so stare senza, non sei necessario alla mia sopravvivenza. Se pensa, io non mi sono persa, di quel che è stato non resta nessuna conseguenza. E ripetevi tutto questo con quell'aria da padrone, convincendomi a pensare che avevo torto e tu ragione, ma lo sai alla fine che l'amore, se lo tieni chiuso a chiave, guarda altrove. Come se accontentarmi fosse la scelta migliore, come fosse troppo tardi, sempre per definizione, come se l'unica soluzione fosse quella di restare. E invece pensa, nessuna conseguenza. sopravvivenza e invece pensa, io non mi sono persa, di quel che è stato non resta nessuna conseguenza, nessuna conseguenza, di quel che è stato non resta. Dicevi, ma tu dove vuoi andare? Che non conosci il mondo e ti puoi fare solo male. Ancora hai troppe cose da imparare. Devi solamente stare zitta e ringraziare. E invece pensa, nessuna conseguenza di te so stare senza. Non sei necessario alla mia sopravvivenza. E invece pensa. Quel che mi sono persa, di quel che è stato non resta nessuna conseguenza, nessuna conseguenza. Di quel che è stato non resta nessuna conseguenza, nessuna conseguenza. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Stiamo parlando oggi, in previsione del Natale, di qualche consiglio natalizio di regalo nel settore enogastronomico. Lo stiamo facendo con Roberta Moresco, sommelier e titolare di un negozio di cui non abbiamo detto il nome. Se vuoi dirlo tu. Beh, grazie, bentornati. Allora, il negozio si chiama L'Angolo dei Sapori, proprio... il nome stesso lo dice, no? Ho un po' di tutto. Ecco, questo è uno dei motivi per cui abbiamo scelto di parlare con lei, non per fare pubblicità al negozio, ma per la sua esperienza nel settore. Siamo partiti parlando di vino. Vorrei tornarci anche un attimino con una domanda che molti si pongono, perché quando uno entra in un'enoteca, ma ormai il vino si compra forse più nei supermercati, uno guarda anche il prezzo e vede anche tante offerte, tante bellissime bottiglie, e si chiede, ma non sa che cosa sta realmente regalando. Per essere sicuri, poi non si è mai sicuri di quello che si regala, ma su che fascia bisognerebbe stare? Cioè, sotto una quale cifra è meglio non stare? Allora, stiamo parlando di una bottiglia di vino che si regala in questo caso. Esatto, quindi... io volevo fare anche una precisazione, se mi permetti. Io tendo a parlare sempre di prodotti di qualità, e quindi quando parliamo di qualità è ovvio che abbiamo una filiera produttiva che è controllata dalla terra al prodotto finale confezionato, no? Per cui, facendo questa premessa qua, io dico, se c'è una filiera veramente di grande qualità e di attenzione al prodotto in tutte le sue fasi, per esempio una bottiglia di vino io non acquisterei, farei fatica ad acquistare personalmente una bottiglia di vino che è sotto i 3 euro, non la acquisterei mai. Certo. Perché ti faccio solo un esempio, il fatto stesso che ci sia la bottiglia di vetro, l'etichetta, il tappo, qualcuno ci avrà anche lavorato per metterci dentro il vino che c'è dentro, insomma stiamo facendo proprio il conto della serva. Sotto i 3 euro io direi meglio non acquistare. Certo. È ovvio che sui 5-6 euro cominciamo a trovare dei prodotti di qualità, ecco, 6, 7, 10 euro, 15 euro, prodotti eccezionali. Dopo il sopra i 15 euro, diciamo, sono prodotti magari di nicchia, cominciano a essere prodotti magari di magari qualche chicca enologica, eccetera. Quindi io direi che sui 6-7 euro stiamo portando a casa, comunque regalando, delle ottime bottiglie. Cambiamo settore, lasciamo il vino, anche se ci sarebbe molto da dire con te per la tua esperienza, ma anche perché hai lanciato sul mercato dei vini, sul tuo negozio dei vini particolari che fai solo tu, ma oggi non parliamo di questo. Dal vino sei passata al tè quest'estate. Sì. Perché? Raccontaci com'è successo. Perché il mondo della sommellerie, quindi un sommelier, deve essere preparato su tutto quello che è beverage. Quindi può essere dalla bibita analcolica fino al superalcolico. e fra questi anche i tè. È un mondo che, devo dire la verità, mi ha sempre, sempre, sempre appassionato, proprio perché il tè in sé è un rituale. Prendere il tè è quasi una cosa, è una celebrazione, soprattutto in Oriente ovviamente. Il rito del tè è qualcosa di molto particolare. Io l'ho vissuta e mi ha emozionato tantissimo questo rituale, no? Quindi da questa emozione è nato un qualcosa di approfondire. Ho detto, mamma mia, ma perché non posso io creare delle miscele di tè, di infusi che possano avere delle caratteristiche che desidero io, nel senso io ricercavo soprattutto una bevanda, in questo caso appunto in infusione, che si potesse eventualmente avere l'alternativa al famoso vino. E quindi da qua è partito uno studio con un signore che di tè e di foglie, di bacche e di fiori ne sa veramente tantissimo. Sono innamoratissima della cultura che ha questa persona e mi sono incuriosita e ho approfondito veramente con questo signore questa chiamiamola comunque conium termita, enologia del tè, nel senso che si crea anche lì un qualcosa, perché una foglia può essere determinante nel gusto del risultato finale, per cui una bacca, il sentore amarognolo, il sentore dolciastro, il profumo, quindi mettere insieme queste cose qua ma veramente entusiasmato. Bene, e ci dobbiamo fermare perché abbiamo esaurito il nostro tempo, però sappiamo appunto, abbiamo dato anche come idea per Natale tè che andate a cercare, fateli consigliare, e che non sia la semplice confezione chiusa pronta, ma informatevi su quello che c'è assolutamente dentro, su tutto. E la pausa tè nel periodo della frenesia natalizia potrebbe anche far bene. Io do anche un sito internet che è www.robertamoresco.com, dove magari ci sono altre informazioni. Tutto. E grazie per questa chiacchierata. Grazie a tutti e buona continuazione. Con questo chiudiamo, vediamo appuntamento con il quadrifoglio la prossima settimana. Se volete ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.